1, 2, 3, prova. Questo microfono nasconde un'alcova. 1, 2, 3, trova. Se nel microfono gatta ci cova. 1, 2, 3, sa. Sa che il microfono nasconde la gatta. Gatta ricatta il microfono della 1, 2, 3, stella.